cercando Ruggero, el trova il volto nei lacci della maga. Oh, è infelice, or qui gelosa e non serva d'ascolto. Veggio nei tuoi bei lupi scintillare quella fiamma che accenderà l'innamorato cuore. Misera, fosse amore quello che dal tuo labbro mi fa bella. Ai donna ingannatrice, già sospira. Mira, o bella de mira, il poter dei tuoi lumi, che costringe il mio cuore ad adorare te. Reo, sì, io t'adoro, cara, di temerario a regir, non mi dirai. Dirò che pria t'amai e giurerò, caro, t'amarti sempre. Perfida, sei pur bella. Oh, traditore, questa è la fe che mi giurasti, e questo il promesso tuo amore. E chi è costei? Non la conosco. Ove trascorsi? Olimpio sono, entasi il nome, e quello il perfido Pirreno, e il giglio più bel su questo seno, sfrondo con fede sposo, poscia m'abbandonò. Se gli sospira, son mentiti sospiri. Di Pirreno che parla? Bella tenera. Olimpia, dei tuoi casi mi pesa il rio tenor, ma tu vedrai che Pirreno non è. Troppo è vero. Bella, da Trigoli duol, io son Ruggero. Non mi ravvisa o finge. E io, tu menti, io conobbi Ruggero, amoroso e costante. Bella nel suo furore, e Pirreno e Ruggero confonde insieme. Lasciamo alle sue smani, andiamo mio cuore. Sarò te con mia vita, traditore.